perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, glielo vuoi confessare tu ai nostri ascoltatori che abbiamo i poteri magici? Abbiamo dei poteri soprannaturali, cara Deborah. Che hanno dell'incredibile, perché neanche diciamo una cosa che trac, ecco qua, che si realizza. Pronti via. Ieri, materializza. Che ieri è successo? Allora, abbiamo ospitato degli esperti, delle colleghe molto preparate su questa ipotesi di una mini patrimoniale sulle polizze vita capitale garantito. Si diceva, ma adesso entrerà nella legge di bilancio. L'abbiamo messa un po' in discussione poi, e l'abbiamo anche un pochino criticata così nel nostro piccolo, con la nostra autorevole leggerezza. Non si è arrivati a sera che già avevano deciso di toglierla dal disegno di legge di bilancio. Ma no, ma neanche ci siamo seduti a tavolo appena finita la trasmissione, per cui non lo so se siamo così autorevoli nei confronti dell'esecutivo. Direi che siamo pronti anche a fare la lista di tutto quello che non ci piace, perché se cancellano così, allora, seduta stante, invertirei l'abituale, chiamerei subito i nostri numeri di telefono abituali, però invitandovi, diteci anche un'imposta che volete togliere. Guarda, perché noi presentiamo, se abbiamo queste la... capacità, esatto, naturalmente con cognizione di causa, non così perché vi sta antipatica, ma perché trovate, non so, che un tale balzello sia superfluo, se volete segnalarcelo. I numeri sono sempre gli stessi. Oggi parleremo di un balzello, ma poi ve lo diciamo per bene. Esatto. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms o whatsapp. Se volete invece scriverci una email, duedidenari@radio24.it. E in tutta la nostra bellezza, come sempre, ci potete seguire anche su Facebook, e come al solito salutino di rito ai nostri amici che ci seguono live appunto sul social network. E anche sul podcast, perché devo dirti, Deborah, che molti ci seguono anche post con il podcast dal sito di Radio 24 o anche dal video, riguardando proprio il video su Facebook. Questo merito tuo, naturalmente, per la tua avvenenza, non tanto per la mia piacevolezza. Allora, avvenenza o no, non è tanto avvenente il tema di cui parliamo questa mattina, però bisogna affrontarlo. Allora, parliamo di una tassa che è sempre stata un pochino controversa, perché non si capisce come, quando e quanto pagare. Oggi scopriamo che molti comuni d'Italia l'avrebbero pure calcolata male, e quindi potrebbe aprirsi la strada ad una montagna di ricorsi per il ricalcolo. Qualche giorno fa sono arrivate delle indicazioni dal Ministero dell'Economia che sostengono che le tariffe applicate da molti comuni risulterebbero infatti molto alte. Di quale balzello stiamo parlando? È un indovinello? Ma stiamo, tu lo sai, parlando della tassa rifiuti. Se indovini, rifiuti, ti regalo il CD dei Chapter 11. Grazie. La tassa rifiuti, o Tari, anche se può avere altri nomi, ma adesso non andiamo proprio nel dettaglio tecnico, perché questa Tari, c'è stata una interrogazione, un question time, come si chiama, alla Commissione Finanze della Camera, in cui un onorevole ha chiesto al Ministero dell'Economia: scusi, ma a noi risulta, e lo devo dire perché mi fa particolarmente piacere, da un articolo del Sole 24 Ore del 4 dicembre del 2014. Perché lui archivia tutto, questo signor parlamentare del Movimento 5 Stelle. Questo parlamentare era molto attento, o ha comunque un ufficio stampa molto puntuale. A noi risulta che il metodo di calcolo della Tari, per quanto riguarda le pertinenze, la cantina, garage, il box e così, il solaio dell'abitazione, non è che ce ne siano tantissime, sostanzialmente queste, ecco, ci risulta che i comuni facciano un po' i furbetti nel calcolo qualche volta, non tutti. Cosa fanno in pratica? Calcolano per più volte, più anche sulla pertinenza, la cosiddetta parte variabile del calcolo della tassa. E hanno chiesto appunto al Ministero dell'Economia: ci conferma se è corretto o non è corretto questo metodo? E il Ministero molto serenamente ha detto: trasparente, è sbagliato, sì, esatto, è sbagliato. E i sindaci si sono alzati sulla sedia, e sono migliaia i comuni, come ci spiegherà il nostro ospite già in linea, che è il collega Gianni Trovati, che poi ha raccontato per primo appunto due giorni fa questa vicenda, perché qui ci sarebbero migliaia e migliaia di comuni sugli 8.000 e passa italiani che hanno questo problema. Partiamo. Rise, Tari e Tasi, che sembrano delle malattie. Chi li ha scelti i nomi? Luciano Onder? Che cosa è la trisse? È vero che se non curata può degenerare in Tasi? Questo continuo acuirsi della trise taritasi può provocare l'ingrossamento della prostata, la famosa prostata tasi. Beh, Di Crozza aveva intuito il motivo per cui era necessario fare anche cuore e denari in passato. Adesso siamo di nuovo ritornati quasi esclusivamente sui denari, però insomma qualche volta qualche tassa, un po' di mal di stomaco. Il fisco da un po' di venire. Gastrite. Allora. In questo caso credo, chiamo in causa subito Gianni Trovati, che un po' di gastrite ce l'abbiano diversi sindaci dei comuni d'Italia. Buongiorno Gianni. Buongiorno, sì, penso che sia però contagiosa e che abbia colpito anche diversi contribuenti che stanno scoprendo di aver pagato per anni il doppio o il triplo di quello che era giusto. Ah, parliamo di doppio e triplo, dici, quindi non parliamo neanche di importi risibili per i quali magari qualche contestazione non è necessario o comunque neanche auspicabile portarla avanti. No, parliamo sì di doppio o triplo. Noi abbiamo fatto un calcolino su delle tariffe medie, diciamo così. Verosimili per una famiglia di 4 persone, 100 metri quadri con una cantina e un box, quindi abbiamo preso una situazione. Gianni, ascolta, aspetta un attimo, siccome vogliamo capirla bene questa storia e ti sentiamo invece piuttosto male, ripristiniamo adesso la telefonata, ne approfittiamo nel frattempo per salutare l'altro secondo ospite che stamattina ci spiegherà bene questa vicenda controversa, Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Luigi, ben ritrovato, buongiorno. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo neanche lui, questa mattina la tecnologia ci è avversa. Però siccome Mauro tu hai studiato tutto, guarda, dimmi un po', allora, che cosa devo fare adesso della mia spazzatura? Allora, della tua spazzatura innanzitutto devi fare la una differenziata a Milano. Raccolta differenziata. No, perché qua le multe fioccano In molti comuni d'Italia, devo dire, molti comuni d'Italia si sono attrezzati, abbiamo dei buoni risultati sulla raccolta differenziata. Però c'è la Tari. Allora, questa imposta, questo prelievo, è un prelievo di tipo comunale. È la sigla sta per appunto tassa sui rifiuti urbani e viene pagata con due quote, cioè con due intanto tipi di calcoli. Intanto è tornato tra di noi Gianni, sì. Benissimo, allora possiamo dargli la parola. Cosa succede? C'è una parte che viene calcolata sull'abitazione principale e il numero dei componenti del nucleo familiare. Il presupposto è più siete e più spazzatura producete. E vabbè, questo mi sembra poi però, incontestabile. Poi però uno ha il box, ha la cantina, eccetera. Allora che si fa lì? Ricalcoliamo di nuovo la cosiddetta parte variabile oppure data la metratura stiliamo che quella è la cifra. Gianni faceva accenno, appunto Gianni Trovati faceva accenno a uno specchietto che segnalava che segnalava proprio nei giorni scorsi quanto può essere aumentato il prelievo. Oggi peraltro vedremo anche di capire come si può fare a riguardare, ricontrollare quello che si è pagato e se il comune adotta, non è detto che lo faccia, ma se il comune adotta questa procedura censurata come sbagliata, e come si fa a chiedergli indietro il denaro? E infatti, allora adesso proveremo a capirlo intanto se il gioco vale la candela, ma in soldoni Gianni ci spiegava che potrebbe valere la candela intraprendere il percorso della contestazione al sindaco di quanto pagato in surplus, diciamo. Gianni, eccoci di nuovo a te, facci un po' sentire se adesso adesso molto meglio. Perdonatemi, tutto a posto. In un mondo parallelo, evidentemente. Sì, esatto. Quello no, tuo delle tasse. Esatto, ho avuto un attacco di yuk al telefono. No, la questione appunto in cifre è abbastanza importante. Noi, dicevo, abbiamo calcolato per una famiglia media di 4 persone, si passa dai 300-350 euro all'anno del calcolo corretto ai 650-700 del calcolo scorretto. Naturalmente le variabili sono infinite, pari alla infinitezza, diciamo così, della fantasia comunale nell'applicare una norma, che è quella del regolamento della tariffa rifiuti, che invece sembrerebbe abbastanza chiara. Qual è il punto della questione? Dicevate correttamente la quota fissa e la quota variabile. La quota variabile varia appunto in base al numero delle persone che abitano l'immobile, perché è quella che servirebbe a tradurre in pratica il principio chiave della tassa rifiuti, in verità mai applicato, più inquini più paghi. È un principio europeo abbastanza ovvio che diventa però complicato da tradurre in pratica. Se tu comune mi replichi la quota variabile 3 volte perché io ho una casa, un garage e una cantina, tu presupponi che io faccia una sera ceno in garage, un'altra sera ceno in cantina e produco rifiuti incessantemente, anche lì invece tendenzialmente al di là di pochi e particolari casi, difficilmente si cena in cantina o nel box. Quindi la produzione di rifiuti è, diciamo così, legata all'immobile nel suo complesso e di conseguenza andrebbe calcolata una sola volta. Naturalmente, come dire, i soldi sono tanti in ballo e si può tornare indietro di almeno 5 anni, perché i termini di prescrizione sono 5 anni, per cui è molto probabile che da questa cosa nasca un'infinità di ricorsi contenziosi, anche perché il destino ha voluto che appunto la risposta dal nulla emergesse a fine ottobre, quando le tariffe di quest'anno sono già state ampiamente decise dai comuni e anche in parte pagate. Quindi è complicato tornare indietro anche in autotutela, diciamo così, un comune particolarmente attento che voglia evitare problemi oggi non può fare altro che aggiustare i calcoli per quel che riguarda l'anno prossimo e i prossimi anni, ma non può aggiustare, diciamo così, quello che è già stato fatto. Quindi tanto lavoro per gli avvocati, per i tributaristi, per le class action e così via. Di una e anche per la radio, guarda, perché tanto per noi è sempre materiale utile. E anche per il giornale, via, dai. Ma mettiamoci anche il sito. Gianni, tu hai ricordato una cosa importante che volevo sottolineare anche agli ascoltatori. Non tutti sono, come dire, appassionati delle scadenze delle imposte. Allora, la Tari viaggia con una certa libertà da parte dei comuni, per cui il momento di prelievo può essere differenziato, esatto, come la raccolta, appunto, può essere diverso su tutto il territorio nazionale. Quello che giustamente ricorda Gianni, ormai per lo più i giochi sono fatti, cioè sono partiti già i calcoli dei comuni, molti di noi hanno già pagato, e quindi qui bisognerà vedere come andare a recuperare, se si può recuperare, quello che potremmo aver pagato di troppo. Per questo io mi rivolgerei al dottor Luigi Lovecchio, che abbiamo in linea adesso. Buongiorno Luigi. Buongiorno, buongiorno a voi, ciao Mauro, ciao Deborah. Ci piazzo subito la domanda testé arrivata di un ascoltatore che chiede: allora, alla luce di quello che state dicendo, poi ti faccio anche la raffica di tutte le tasse che vorrebbero vedere abolite, gli ascoltatori sono tante, conviene allora andare in comune per verificare la Tari da utente? Sono appartenente ad una famiglia di 3 persone. Sì, diciamo in linea di principio sì, farei solamente una precisazione. In linea teorica, ma in linea teorica, ribadisco, l'autotutela è sempre possibile, anche dopo che sono scaduti i termini, anzi l'autotutela si caratterizza proprio per il fatto che interviene ex post. Una volta scaduti i termini, i comuni potrebbero intervenire in autotutela. Secondo me non lo faranno perché è estremamente complesso. E quindi in questa fase io credo che i comuni giocheranno di rimessa, cioè sostanzialmente vedranno quante istanze di rimborso riceviamo, perché se ne riceviamo 10.000 è un conto, se ne riceviamo 10 è un altro conto. Lo stornano direttamente al Ministero dell'Economia, dice: l'avete fatto voi questo caos, adesso ripagate voi, vabbè, a parte il folklore, Luigi. Sì, e per il resto sì, diciamo in linea di principio, a voce ferme, cioè se il comune non interviene, e i risparmi possono anche essere quelli che ha ipotizzato Gianni Trovati su Sole 24 Ore di ieri, e quindi è vero, quindi conviene verificare se in effetti il comune ha raddoppiato o triplicato i componenti del nucleo familiare, cioè la quota variabile della tariffa per ciascuna pertinenza. Ovviamente anticipo la prima obiezione che farà il comune, quindi è bene che non illudiamo, diciamo, gli ascoltatori che la strada è semplice, piana e quant'altro. La prima obiezione che farà il comune è: dimostrami che quella è una pertinenza, perché il punto focale di tutto il ragionamento fatto nella risposta al question time è che la pertinenza in quanto tale si considera un unicum insieme al bene principale, come se fosse un unico immobile. È un principio generale che viene dal codice civile, quindi essendo un unico immobile tu la quota variabile me la devi calcolare una sola volta. Però l'onere di provare che quella è una pertinenza è del contribuente. Allora, mi viene già facile fare una, diciamo, un'obiezione di questo genere. Se la pertinenza si trova nello stesso stabile dell'abitazione principale, diciamo che la prova è abbastanza schiacciante. Sì, è agevole, diciamo, sta nello stesso stabile, il garage, quindi insomma va abbastanza de plano, però incominciano i problemi se la pertinenza si trova, non lo so, a 50 metri, a 100 metri, immagino per esempio le grandi città, Milano, Roma, Torino, eccetera, dove non è facile, non accade sempre agevolmente che tu trovi il garage esattamente nello stabile dove abiti. Perché nella bolletta non è indicato naturalmente la quota per la pertinenza che si paga, la parte variabile. No, ma lo chiedo perché un'ascoltatrice, Donatella, ci ha mandato la fotografia della sua bolletta. In realtà la parola pertinenza viene indicata in più passaggi di questo documento. Luigi. Sì, allora bisogna vedere che cosa è stato dichiarato dal contribuente, perché questa è un'informazione che potrebbe essere comunicata al comune o potrebbe non essere comunicata al comune, perché dipende tutto da quello che il contribuente ha indicato nella denuncia della TARI. Allora, se al comune è stata già indicata la natura pertinenziale, questo diciamo che agevola il contribuente, il quale dice: ho indicato la natura pertinenziale, adesso ti chiedo indietro i soldi. Ma resta ferma, insisto, l'obiezione che può fare il comune, perché ovviamente il fatto che il contribuente abbia dichiarato come pertinenza e non esaurisce tutto diciamo l'attività istruttoria che è richiesta. Me l'hai dichiarato tu e io per adesso, ovviamente il comune fino a quando ha moltiplicato le quote variabili non aveva interesse ad andare a sindacare se è vero, se quello è pertinente oppure no. L'ha accettata la dichiarazione del contribuente, punto e basta, tanto non ci rimetteva niente, ha moltiplicato le quote variabili, non succede nulla. Ma adesso che si tratta invece di restituire i soldi che sono stati versati, io mi devo aspettare da parte degli enti impositori che dicano: va bene, tu dici che questa è pertinenza, ma vediamo un attimo dove è ubicata. E quindi, dicevo, la prima obiezione che potrebbe essere mossa è: se il tuo garage si trova a 50 metri, a 80 metri o di più dall'abitazione principale, io faccio fatica a pensare che questa sia una pertinenza. Esatto. Dopodiché la procedura è quella che abbiamo indicato tutti, cioè una volta che io mi sono preso le bollettine del comune, sono andato a vedere su tutti i miei immobili come è calcolata la TARI, ed è facile vedere se c'è la quota variabile calcolata più volte, quindi francamente non è difficile, a quel punto io sono titolato a presentare questa istanza di rimborso. Come ricordava giustamente Gianni Trovati qualche minuto fa, il termine per presentare questa istanza di rimborso è di 5 anni dalla data del pagamento. Faremo una prova sul campo, Mauro, io e te qua a Milano, mi pare di capire che potremmo aver diritto nell'intraprendere. Andiamo subito iniziativa. A spulciare nei cassetti a cercare. Guarda, no, però consiglio anche questo weekend. Volevo dare la parola a Vito da Verona che ci fa proprio la domanda: che devo guardare? Buongiorno Vito. Buongiorno. Buongiorno. Vito, lei ci chiedeva quindi cosa. Allora, sto ascoltando la vostra trasmissione che è interessantissima, però mi sono fatto la domanda: io sono propenso ad andare a fare questo controllo, però come faccio a leggere la bolletta che mi manda l'azienda municipalizzata di Verona, perché io abito da Verona, per vedere se è stato fatto questo, tra virgolette, trucco o meno? Allora lo chiedi, giriamo subito a Luigi Lovecchio che ce lo stava spiegando poco fa. Luigi, buongiorno. Prego. Semplicemente dalla bolletta, poi ovviamente non posso escludere che alcune bollette siano così oscure che non si capisca nulla, ma questo, diciamo, metto le mani avanti, ma nella bolletta dovrebbe essere calcolata la TARI per ciascuna unità immobiliare. Noi stiamo, il caso che noi stiamo ipotizzando è questo: io ho la casa che ha un suo autonomo accatastamento e ho un garage che ha anch'esso un suo autonomo accatastamento. Sono due unità immobiliari distinte, perché se fossero nella stessa partita catastale questo problema non si porrebbe, l'avremmo calcolato una volta sola, non si pone nemmeno il problema del rimborso. Il problema si pone quando sono due unità immobiliari distinte. Allora, nella bolletta sui rifiuti, almeno diciamo nella bolletta che ha i dati elementari per comprendere, dovrebbe esserci calcolata la tassa rifiuti separata per tutte e due le unità immobiliari. E allora, siccome nella bolletta c'è l'obbligo di indicare sia la quota fissa sia la quota variabile per ciascuna unità immobiliare, ecco fatto: se io ho due unità immobiliari, una è l'appartamento e l'altro il garage, io controllerò che nella bolletta sia stata calcolata oppure non la quota variabile per entrambe le unità. Questi dovrebbero essere aspetti che, insomma, dovrebbero essere espliciti nell'avviso di pagamento. No, stavo allora proprio cercando di capire il ragionamento che ha fatto Luigi controllando la bolletta che ci ha mandato la nostra Donatella, e lei ha praticamente proprio una separazione netta tra le pertinenze e l'abitazione. Per quello che riguarda la cifra applicata all'abitazione, ha una tariffa di parte fissa e una tariffa di parte variabile. Sulle pertinenze ha solo la tariffa di parte fissa, quindi significa che qui la parte variabile non ce l'ha e lei non è necessario che eventualmente... Il calcolo è stato corretto. Esatto, giusto Luigi? Sì, sì. Perfetto. Sì, esatto, è così, anche perché tenete presente che questa storia della duplicazione della parte variabile non è una storia ignota agli addetti ai lavori, perché insomma in diverse occasioni mi è capitato di discuterne con operatori, con comuni, con case di software, perché poi capite, tutta sta roba nasce anche dai programmi software che vengono utilizzati, e quindi si sapeva che insomma era dubbia la correttezza della duplicazione della quota variabile, per usare un eufemismo, quindi alcuni l'hanno già evitata a monte. Nel caso che mi avete letto voi, questo problema evidentemente non c'è. Quindi c'è una buona notizia per l'ascoltatrice, nel senso non ha pagato più del dovuto, non so, una cattiva se già aveva fatto il conto di quanto poteva riprendere nei 5 anni. Continuate a scriverci, a telefonarci, 800 24 00 24, 348 239 6666. Adesso però Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Senti un po', 25. Tu qua mi devi fare due favori. Il primo favore quale sarebbe? È il primo favore che tu mi devi ospitare qua per un po' di tempo. Ma qui c'è sta un letto solo, poi c'è sta un divano che è pure stretto. Appunto, tu dormi sul divano, io dormo sul letto, non ti pare giusto? Sono contento. Allora, chissà intanto in quella casa che misura di tari si paga, però abbiamo scomodato Ermonnezza stamattina. Esatto, la citazione è cinematografica. Pace questa volta, sua, e esatto. Non musicale. Thomas Milian. Perché stiamo parlando, esatto, di Monnezza, rifiuto, ruffo, rumenta e non so come altro si dica in tutte le parti d'Italia, ma stiamo parlando della tari. Ecco, a questo proposito un paio di precisazioni, scusate la pedanteria. Qualche ascoltatore ci scrive o ci chiede della TASI. Sì. La TASI è invece la tassa sui servizi indivisibili. Non è successo niente su quella tassa lì e quindi non ne parliamo. Invece parliamo della tassa rifiuti, che è quella che noi paghiamo, perché in alcuni comuni, come vi stiamo spiegando, potrebbe essere stata applicata male, con un aggravio notevole di spese per il cittadino. Potrebbe essere stata applicata male la tariffa, calcolando appunto più volte la parte variabile. Quanti comuni secondo te Gianni Trovati lo sa? Esiste un censimento di questo tipo, Gianni, per capire se ci possiamo divertire molto nei prossimi mesi o seppure questa vicenda è un grattacapo solo per pochi sindaci? No, non esiste un censimento, ma esiste una sensazione. La sensazione è che i comuni interessati dal problema siano svariate centinaia, perché le segnalazioni di problemi analoghi riguardano un po' tutta Italia, vanno da Milano alla Puglia, Andria, Lecce e così via, passando per centri grandi e medi delle altre regioni. Qual è la questione? La questione è che, come scrivono spesso i nostri esperti sulle pagine di norme e tributi, aperte virgolette, la norma ha almeno due interpretazioni. Questa frase riguarda più o meno tutte le norme italiane. Le norme fiscali ne hanno quando sempre... va bene ce ne hanno due. Le norme fiscali ne hanno sempre almeno tre, le norme sul fisco locale ne hanno sempre almeno 15. Ecco. E quindi sul regolamento della TARI, che è eredità dei regolamenti delle vecchie tariffe rifiuti che hanno cambiato sigla, ma è sempre la stessa cosa, i regolamenti appunto sono stati applicati in una moltiplicazione di variabili che non conosce sostanzialmente confini, per cui per esempio a Milano il problema riguarda, se ricordo bene, le cantine ma non i solai. A Lecce i garage sono stati tassati come unità non abitative, quindi gli moltiplica la tariffa variabile, ma la quota variabile, ma la quota variabile è diversa rispetto a quella della casa. Come vedete, le possibilità di dispute, diciamo, di tipo teologico sulla Tari sono pressoché infinite, come infinite sono le possibilità di contenzioso. Ecco, allora, bravo, Cataldo, Cataldo ci chiama proprio dalla Puglia, dalla provincia di Foggia, ha una domanda. Buongiorno Cataldo. Cataldo non ci sente, allora andiamo, rimaniamo in Puglia a questo punto, visto che l'abbiamo richiamata, e andiamo da Elena. Elena da Lecce, buongiorno. Come mai stanno cadendo tutte queste telefonate? Che sta succedendo? E niente, rimaniamo a Milano con Luigi, sempre che lui voglia parlare con noi. Luigi, c'è? Ci mancherebbe. Eccolo qua, buongiorno. Sì, ci sono. Ci dica. Io, sì, ma non Luigi Lovecchio, Luigi da Milano. Ah, ecco. Ecco, Luigi, il nostro ascoltatore, quindi Paolo. Niente, abbiamo dei problemi con le linee. Allora, invece Luigi Lovecchio, sì, questo voglio chiamarlo in causa io, Luigi Lovecchio, perché gli voglio chiedere, ma Luigi, come facciamo? Mettiamo di aver controllato tutto. Abbiamo visto che il calcolo della parte variabile è stato fatto scorrettamente, cioè ci hanno applicato la parte variabile anche sulla pertinenza, sul garage, sul box, eccetera. E a questo punto, bene, dove vado? Le imperscrutabili vie del ricorso, quali Busso sono? Busso al sindaco e gli chiedo indietro il denaro? No, sarà una cosa un po' più formale. Sì, sì, certo. Allora, innanzitutto vanno distinti due casi, uno dei quali è già emerso in un intervento degli ascoltatori. In molti casi la tassa rifiuti non è gestita e riscossa dal comune, ma è gestita da un soggetto terzo, per esempio il soggetto gestore del servizio pubblico dei rifiuti. A questo punto, in questi casi, l'istanza di rimborso va rivolta esclusivamente nei riguardi del soggetto che gestisce la tassa. Cioè, se questo soggetto riscuote a nome proprio la tassa, e questo lo si capisce dalle bollette. Le bollette sono intestate a chi? Al comune di Vatte la Pesca o alla Lovecchio SRL? Se è intestato al comune di Vatte la Pesca, l'istanza va fatta al comune. Se è intestata alla Lovecchio SRL, l'istanza va fatta alla Lovecchio SRL. Quindi io direi, mettendo in ordine le cose, la prima questione è il soggetto deputato a interloquire con il contribuente. E qui dipende i due casi, come vi ho detto, a seconda che la tassa sia gestita e riscossa dal comune o gestita e riscossa da un soggetto terzo. Fatta l'istanza, io faccio un'istanza in cui indico ovviamente le annualità per le quali c'è stato il calcolo scorretto. Non ho bisogno, scusami Luigi, non ho bisogno di un avvocato per questo tipo di istanza, posso farla anche in proprio? Sì, l'istanza certamente la posso fare in proprio, in questa fase non ho bisogno di essere assistito, io faccio l'istanza, allego prevedibilmente la copia dei pagamenti che ho fatto, perché ovviamente dimostro al comune che ho pagato, ecco, questi importi sono stati pagati, e chiedo quindi il rimborso della differenza di tassa oltre gli interessi, perché ricordo che spettano gli interessi dalla data in cui il pagamento in debito è stato effettuato. A questo punto si apre un arco temporale che è all'incirca di 90 giorni, nel senso che decorsi 90 giorni dall'istanza, dalla presentazione dell'istanza, ed è verosimile che questo si verifichi nella stragrande maggioranza dei casi, il comune potrebbe non rispondere affatto, perché obiettivamente rispondere è imbarazzante in questa situazione. Potrebbe non rispondere affatto. Sì, impegnativo e imbarazzante nel contempo. Se non risponde decorsi 90 giorni, io a questo punto posso proporre ricorso contro il silenzio rifiuto, perché è un istituto processuale che è denominato silenzio rifiuto. Non è un silenzio assenso in questo caso, ecco. No, esatto, è un silenzio rifiuto. Diciamo, l'inerzia del comune per 90 giorni viene equiparata processualmente al silenzio rifiuto. Decorsi quindi 90 giorni, io posso presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale. Ecco, qui io mi permetto di dire, è vero che per importi non superiori a 3.000 euro io posso stare in giudizio da solo, cioè non ho bisogno di assistenza tecnica, tuttavia siccome il contenzioso tributario è informato da un certo tecnicismo, cioè è caratterizzato da norme processuali e quant'altro, per evitare di fare errori che poi potrebbero costare, per esempio, l'inammissibilità del ricorso, io del tutto spassionatamente, sono un libero professionista e quindi è evidente che quello che sto per dire può essere ritenuto interessato, però insomma, nella misura in cui ho un minimo di credibilità, io dico del tutto spassionatamente suggerirei di rivolgersi ad un professionista. Ok, quindi certo, Luigi, per riassumere, allora potete cominciare, prima di tutto verificate com'è il calcolo, se non riuscite a capirlo dalle bollette consultate, consiglio mio, anche il sito per i comuni grandi, i siti spesso sono ricchi di informazioni sul calcolo. La prima parte, cioè l'attivazione per chiedere eventuale rimborso, la potete fare da soli. Quando poi però entrate nella vera fase del contenzioso per farvi ridare il denaro, ecco lì forse l'assistenza è meglio averla, infatti. L'assistenza di un commercialista, di un tributarista, di un avvocato, insomma, certo. Poi scegliete voi. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante perché c'è il traffico. Due di denari. Allora, visto che abbiamo invitato i nostri ascoltatori all'inizio a dirci quella che è la tassa che a loro sta proprio qua, ecco, faccio il gesto a beneficio di chi ci segue, sì, su Facebook. Sta indicando la gola, la gola, voglio dire, o sullo stomaco. Non stiamo facendo gestacci. In qualunque altra parte del corpo vi stia un po' scomoda. Ecco qua la modalità in cui si sono sbizzarriti i nostri ascoltatori. Il primo che ha scritto è stato un ascoltatore che dice: vorrei mettere una tassa sull'Inter, non so che cosa c'entri con il tema di stamattina, glissiamo. Ma te lo dico. Canone Rai, che ha veramente un grande consenso. Glissiamo però, scusami, glissiamo, sì. Ma tanti auguri a Milan, naturalmente. La tassa in assoluto più odiosa è quella sulla successione. Tari, altri ascoltatori ci chiedevano tutto l'universo mondo sugli immobili, che peraltro cambia continuamente, per cui rende la vita difficile ai nostri contribuenti. La tassa tra le più inique, secondo me, è quella sui passi carrai, ci scrive Dario da Padova, e poi adesso vado a caccia appunto anche di altre idee. Al netto delle imposte statali, siano proprio quelle locali che spesso generano le fastidio da parte dei contribuenti, perché non anche sono poi, tra l'altro, come stiamo vedendo questa mattina con la Tari, non sono neanche così comprensibili. Cioè, essendo, come diceva prima Gianni Trovati, illimitata, sterminata la fantasia dei sindaci, a volte si fatica anche a capirsi su che cosa bisogna pagare, per che cosa si sta pagando. Sono fantasiosi anche perché, come sappiamo, il tema del trasferimento di risorse dallo Stato centrale a quello periferico è sempre più, come dire, meno generoso, tant'è vero che c'è anche un referendum per questo in questo weekend, no? Ma anche, tra virgolette, per sollevare questo problema. Allora no, tra l'altro c'è un ascoltatore invece, Mauro, che a proposito della questione che affrontava prima Luigi Lovecchio, che diceva che dobbiamo eventualmente anche andare a bussare alla porta della società che riscuote per conto del comune questa tassa. Un ascoltatore dice: ma se il vecchio gestore dei rifiuti non esiste più, a chi mi rivolgo? Ecco, aggiungiamo problemi a problemi. Beh, in questo caso mi sembra abbastanza naturale che si vada al comune, credo. Luigi o a chi è subentrato, Luigi? Esatto, o a chi è subentrato, sì. Io in questi casi farei un'istanza ad entrambi, comunque, cioè farei l'istanza sia al comune sia al gestore che è subentrato. E teoricamente, in caso di subentro, è il nuovo gestore che appunto subentra in tutti i rapporti pregressi che fanno capo al vecchio gestore. Siccome però non è che mi devo andare a leggere, io sono un contribuente, sono un cittadino, non è che mi devo andare a leggere tutti i contratti che sono stati stipulati, se è cambiato gestore io farei l'istanza di rimborso sia al comune sia al nuovo gestore. Un'altra tassa, le accise sui carburanti, odiatissime, e questo lo possiamo anche comprendere perché non riescono a far risparmiare nulla sul piano di benzina, anche quando il prezzo appunto della benzina scende molto, in realtà c'è questa parte incomprimibile, quanto valgono il 70% sul prezzo totale. È uno dei casi in cui appunto le imposte superano il valore del bene. Un'altra tassa, ma questa me la devi spiegare tu perché non so se la pronuncio correttamente, il pontatico, cioè il diritto di attraversare un ponticello per accedere alla strada di casa. Questo mi devo documentare, Deborah. Questa pazienza. Non la sapevi, ci no. Devi fare un bel c'è imposta per te. Prometto un c'è imposta per te sul pontatico o pontatico o pontaticò, non so neanche bene, esatto, dove vada l'accento. Infatti. Allora Luigi da Milano invece vorrebbe eliminare il fatto che scompaia l'assegno di accompagnamento quando chi lo riceve sta in ospedale per più di 15 giorni, ce lo segnala, ci aveva anche telefonato ma non può intervenire. Io farei un riassunto ultimo. Gianni, tu pensi, chiamando in causa Gianni Trovati, ma tu pensi che ci possa essere un intervento governativo? No, perché oramai la regola è sempre stata chiara. C'è stata, per così dire, incertezza, adesso non dovrebbero più cambiare le cose. Ma siamo sempre in campagna elettorale, io te lo dico, te lo ricordo. Maliziosa. Ma speriamo di no, diciamo, nel senso che la fantasia comunale che veniva evocata prima nasce ed è facilitata, diciamo così, dalla modalità quantomeno bizantina con cui queste regole sono state create e scritte, quindi speriamo di no. Ma soprattutto per quello che è successo fin qui, cosa fatta capo A. Quindi è vero che le deroghe, diciamo, ai principi tributari possono essere di ogni tipo e colore, ma mi pare complicato far tornare indietro la macchina del tempo e risolvere il problema a monte, perché qui il problema, oltre che per il futuro, ma per il futuro è sperabile che tutti i comuni si adeguino alle indicazioni ribadite dal Ministero dell'Economia, ma sul passato non si può fare nulla. Prima di lasciarti al tuo momento di gloria finale, caro sì. Mauro, però adesso Marco da Como non riusciamo a farlo ad intervenire perché stiamo chiudendo, ma lui ci vuole raccontare che ha un'impresa di onoranze funebri e a Como ogni famiglia deve pagare sul deceduto 85 euro, è l'unico comune in Italia che si è inventato questa tassa, la tassa sul defunto, sul decuius, questa la non la decuius sapevi, tax, questa non la sapevate neanche voi lì del Sole 24 Ore. Secondo me neanche Luigi Lovecchio, che ringraziamo per averci sì, aiutato no. questa mattina. Sì, confesso che non la conosco. La tassa sul decuius ti era ignoto. Io direi che un approfondimento la merita tutta, grazie. E allora ringraziando soprattutto anche Paolo Corleoni che ci assiste questa mattina, nonché come sempre Marco Lombardo e Giulia Lauricella. Ma non ha terminato l'assistenza. Andiamo al mio momento. C'è Imposta per te. Aveva una casetta piccolina in Canada. Ha una sigla personalizzata a seconda del venerdì, ma ti sembra carino? Mi sto nei miei confronti? Mi sto allargando, cara Debora, perché invece tu con i mercati hai sempre quella sigla lì. Devo chiedere dei cambiamenti, vai. Allora, ti voglio parlare, e vi voglio parlare, delle meraviglie dell'articolo 67 del TUIR. Che meraviglia. Forse tu non ci avevi ancora riflettuto? No. Sul comma 1 lettera B del 67 ti TUIR. Prometto che mi metto a pari questo weekend. Guarda, allora, perché? Parlavamo di casa, di tassa rifiuti sulla casa, e allora sull'esperto risponde. Lunedì prossimo avremo la risposta appunto a un contribuente che ha detto: io ho una casa all'estero ma non risiedo più là, sono tornato a risiedere in Italia, vorrei venderla. Beh, ma non è che pure all'estero opera quel discorso che se vendo prima dei 5 anni me lo considerate speculativo e mi tassate? Perché in fondo è una cosa che avviene, nel nostro caso a Londra, nella canzone avveniva in Canada. E la risposta dell'esperto è spietata e dice: il 67,1 lettera B ti segue anche quando sei all'estero. Ti guarda pure lui. Perché c'è sempre, cara Debora, un'imposta per te, anche se tu compri una casa all'estero. Allora, e concludiamo in bellezza con la tassa sull'ombra delle insegne a Faenza, ci racconta Fulvia. Io non so se adesso si stanno sbizzarrendo no, i nostri ascoltatori se la questa inventano. Mi era nota. Ma in che cosa consiste? Scusa. Perché quando ad esempio un esercizio commerciale usa una tenda, ecco. Potrebbe darsi che utilizza anche questa tassa sull'ombra. Esatto, che ne dite della tassa sulle tende da sole che insistono sul marciapiede di accesso al mio box? Mauro, facciamo un bel bestiario di due di denari, le va tasse bene. Più incredibili, perché vedo che nonostante la tua esperienza in materia anche tu vieni colto di sorpresa ogni tanto. Ma guarda, il fisco non è mai possibile conoscerlo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua interezza. E noi continueremo naturalmente a documentarvi al meglio su tutto questo, sperando di rendervi gradevoli anche questi argomenti che tante volte sono un po' ostici. Lunedì parleremo anche noi della questione dei papà separati, con lo spirito però di servizio di due di denari, ve lo anticipo già, e cercheremo di capire l'assegno di mantenimento, quando è doloroso per il papà che deve versarlo, quando ci sono le condizioni per rivederlo e quant'altro. Insomma, pronti anche per il nostro bel programma di lunedì. Mauro, buon weekend. Anche a te, Debora, e anche agli ascoltatori. A presto, a lunedì.